Mamma, dove vai? Entro qui a fare scorta di bellezza. Piume? Non li conosco. Ma scusa, come pensi che mi prenda cura di noi e della nostra casa? Da Piume trovi anche tantissimi profumi e articoli di make-up. E conoscendoti, hai prezzi migliori. Esatto. Mamma, ma quante ne sai? Dal 24 luglio al 6 agosto, BioPoint shampoo professionale 400 ml a solo 4,99 euro. E tutto panno carta a due rotoli a solo 2,29 euro. Più me, coccole per te e la tua casa. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale, spazio-temporalmente dislocato, a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime Radio, come tutti i giovedì sera, benvenuti a questa nuova entusiasmante puntata di Quando eravamo futuro qui su www.runtimeradio.it, la web radio geek. E questa è una puntata importante, speciale, ci teniamo sicuramente. Però prima di spiegarvi perché e per come, presento ovviamente il resto della ciurma che c'è qui, insomma, come tutti i giovedì sera. Ad esempio iniziamo da Eo No Bangalo, Davide Gatti. Buonasera, che accoppiamento mi hai dato. Che bella cosa, che bella cosa. Sì. Ma poi tra l'altro Davide Gatti, che ha superato, come sapete, nel suo canale YouTube i 10.000 ascoltatori e i 10.000 iscritti, e più oggi la figlia si è laureata, quindi facciamo grossi complimenti, veramente momenti di gioia, e complimenti anche al babbo, giustamente, perché insomma c'è anche un po' del babbo dentro, giustamente. Ma direi che più farina del suo sacco, perché ho sempre studiato pochissimo, quindi mi ha superato alla grande. Perché a te non serviva studiare, fondamentalmente. Oddio. Vabbè, facciamo. Serve sempre studiare, serve sempre. Roberto Tomaiuolo. Ciao ragazzi, buonasera. Sempre l'entusiasmo, mi raccomando, è importante. ragazzi. Sono entusiasta. Pensa quando sono normale. Esatto. Ah, ok, perfetto. E l'autore, diciamo, il promotore, l'autore di questa puntata, che tra l'altro è una puntata con un tema che sarà diviso in due parti, questa che è sicuramente quella più emotional, diciamo così, anche più interessante, poi sarà una seconda puntata giovedì prossimo più dedicata all'aspetto più tecnico relativo ad altri aspetti collaterali che poi non vi dico, perché se ancora non vi ho detto il tema della puntata, che comunque già sapete. Carlo Sant'Agostino. E benvenuti a tutti i radioascoltatori. No, non fa, non frequenze di Runtime Radio. No, non fa proprio per te, guarda, no, non è roba tua questa, insomma. Va bene, non parlo più così allora. No, ma è il telegiornale questa. Sembravi yogi. Esatto, bubu. E il Ranger. Una reputazione buttata alle ortiche. Mamma mia, anni e anni di professionismo e di divulgazione, niente, andata via così. Storica che adesso riprenderemo, ma soprattutto chi abbiamo in questa puntata? Sta a te adesso in questo momento. Perché... Anche perché noi abbiamo annunciato che c'è un ospite questa puntata, che è importante, poi tra l'altro, perché è propedeutico, diciamo, alla narrazione. Esattamente. Allora presento con molto piacere il mio amico Antonio Bonanno, super ospite speciale. Ciao Antonio. Buonasera ai miei amici, buonasera a tutti quelli che stanno ascoltando questa trasmissione. Questa sera attenzione, perché la puntata sarà davvero speciale, ricca di ricordi, ricca di emozioni e soprattutto di esperienze di ognuno di noi. Ma ti ha diventato il propedeutico prima d'ora? In un nanosecondo è diventato il padrone di casa, Antonio. Esatto. Perché lui fa tutto da solo. Però Antonio, spiega perché, nel senso, perché sei Antonio, la tua presenza, no? Giustamente. Esatto. La spiego io? Sì, vai. Sì. Chi sei tu? Cosa hai fatto? Perché sono un ragazzo romantico che crede ancora nell'amore. Ok, a posto. Va bene. No, io credo di essere qua con voi semplicemente perché messi giù i panni del buffone del web con foto strane, con ricordi strani, forse perché parlando di radio, io ho fatto un po' di radio negli anni, 25 di filato. Un po', insomma, 25 anni di radio, un po' praticamente. Sì, un po'. Metà della tua vita, in pratica. E quindi sono onorato, ecco, di essere qua con voi a parlare della mia esperienza, ecco, a ricordare un po' certe cose, certi episodi importanti e soprattutto a parlare della radio come era una volta, come era poco tempo fa e come è oggi. Ok. Allora, ragazzi, prima di iniziare, intanto salutiamo anche coloro che già, insomma, sono vivaci. Vedo Michela che dice finalmente uno bravo veramente, questo giustamente salutiamo anche Vincenzo che dice scusate c'è Davide, sono qui per dare un po' di fastidio, quindi va bene. Salutiamo anche Lilith, ma perché un podcast in versione Yogi e Bubu lo schifate? Sì lo schifiamo sicuramente. Anche Vincenzo, vabbè, l'abbiamo già detto. Pietrone, anche se c'è un bel po' di gente stasera, devo dire, sono molto contento, mi fa piacere. Allora vi introduco così, guardate, giusto per fare un po', eh. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Ah, questo è Eugenio Finardi con la canzone che ha dato poi il titolo a questo episodio, che chiama. Se la radio è libera, la libera veramente, che tra l'altro è, diciamo, lo slogan che noi ci siamo portati avanti. Prima di introdurre veramente e definitivamente questa puntata, volevo ringraziare intanto Morgan per quanto riguarda un commento molto bello, che stringato ma comunque significativo, per la puntata precedente, che ha detto episodio emozionante, ci ha fatto veramente piacere. Poi vediamo che nel feedback Carlo Sant'Agostino continua a litigare con gli ascoltatori. Questa è sempre una cosa saggia, insomma, diciamo così, fa sempre bene agli ascolti. E detto questo, come sapete, quando eravamo Futuro, che è il programma di società e cultura degli anni 70 e 80, continua a raccontare delle transizioni che non sono solo tecniche e tecnologiche, ma sono anche sociali e culturali, e nello specifico, come abbiamo fatto con la televisione, oggi lo facciamo anche con la radio, perché pure la radio ha subito una trasformazione che ha aiutato anche al progresso della società, perché poi ha permesso, insomma, diciamo, alle persone di conoscere magari musica che non era facilmente ascoltabile, punti di vista diversi da quelli che erano veramente a livello istituzionale. E quindi, insomma, ci fa veramente piacere parlare finalmente di radio da una web radio come la nostra, che, diciamo, prende spunto anche a pieno titolo, perché noi siamo sì una web radio non professionale, ma siamo anche un po' pirati ogni tanto. Insomma, diciamo che ogni tanto ci scappa questa cosa così di fare cose che non dovremmo fare, ma chi se ne frega, e va bene così. Carlo, va bene, niente, allora introduciamo, partiamo proprio dalla canzone La Radio di Eugenio Finardi, che ha introdotto, che è del 1975. Perché questa canzone è uscita nel 75? Perché in realtà è stato proprio l'anno, un po' l'anno domini, perché in Italia fino al 1974 era vietato aprire una stazione radio dal punto di vista privato. Infatti la legge riservava solamente allo Stato l'esercizio esclusivo della radiodiffusione. Ci sono state solo due eccezioni: una fu Radio Sardegna che trasmise dal 43 al 52, e l'altra Radio Ferrara, che trasmise alcuni mesi del 1946. Ma furono casi isolati, quasi esperimenti sperimentali, ma in realtà la radio pubblica era la Radio Rai, l'unica radio esistente in Italia e l'unica radio che si poteva ascoltare. Solamente qui al nord all'inizio degli anni 70 sulle frequenze, la RAI trasmetteva sull'AM, però gli apparecchi radio permettevano, erano compatibili anche con le onde trasmissioni in FM, poi magari sui tecnicismi ce lo spiega meglio Davide le differenze tra AM e FM, ma in FM al nord Italia si ricevevano alcune emittenti estere che trasmettevano anche in lingua italiana, che erano Radio Capodistria, Radio Monte Carlo e la radio della Svizzera italiana, però venivano ascoltate solamente nelle regioni del nord Italia. Adesso non entriamo nel dettaglio proprio storico delle radio libere, delle radio pirata che nacquero all'estero, principalmente fu un movimento negli anni 70 presente soprattutto in Inghilterra e nel Regno Unito. In Italia ci fu un tentativo di fare una radio libera, una radio pirata, e questo poi magari ne parlerà meglio Antonio, perché fa parte della, ricordiamo, Antonio ha lavorato, come giustamente ha detto, 25 anni in radio, ma in Sicilia, in radio locali siciliane, esatto, e nella prima radio pirata italiana che si ricordi fu nel 1970 Radio Sicilia Libera, che iniziò le trasmissioni nel marzo del 70 e durò solamente 24 ore, perché poi fu chiusa dall'arrivo dei carabinieri, e si trattava poi di una radio particolare, raccontava della zona del Belice, che era stata che aveva avuto il terremoto recentemente in quegli anni, quindi insomma una situazione un po' particolare, poi approfondiremo con Antonio sicuramente. Comunque, cosa successe? In quegli anni si intentò, quindi quello fu il primo tentativo, poi sull'onda dell'imitazione dell'Inghilterra iniziarono a voler trasmettere, a creare delle radio molte, diciamo, persone, gruppi, soprattutto gruppi che parlavano di politica principalmente in quegli anni, e nel 1974 la Corte Costituzionale in realtà prese un po' atto del fatto che si iniziava a trasmettere così e concesse ai privati la facoltà di trasmissione. In realtà nel 74 concesse la facoltà solo di trasmettere in filo diffusione, cioè quindi solo via cavo in ambito locale, però in realtà già prendendo la scusa di questa apertura si moltiplicarono le radio che trasmettevano in FM. L'FM rispetto alla AM aveva il difetto, tra virgolette, che l'ampiezza geografica, considerata l'antenna di trasmissione, era molto minore raggiungibile rispetto alla AM, e quindi le radio libere, così dette, perché radio pirata voleva dire praticamente che non aveva nessun diritto legale, ma essendo poi nel 1974 e poi confermata nella legge del 76 concessa la trasmissione anche ai privati, quindi oltre alla RAI, si cambiò il nome da radio pirata a radio libere, diciamo, quindi non statali, non statalizzate. E queste radio si configurarono subito per una zona geografica, quindi radio locali, e ebbero la forza anche di sperimentare molto di più di quello che faceva la RAI. Per esempio già iniziarono a trasmettere in stereofonia, precedettero le trasmissioni della stessa RAI, che non aveva ancora raggiunto una trasmissione stereofonica, invece queste piccole radio locali iniziarono a trasmettere in stereofonia, e soprattutto iniziarono l'interattività con gli ascoltatori, che vennero coinvolti dando la possibilità di telefonare nel corso dei programmi, e quindi anche creando opinioni, commenti, oppure la richiesta di brani, scegliere brani di gradimento. Quindi alcune radio addirittura iniziarono a impostare dei palinsesti dedicati a delle fasce di utenza, quindi su tematiche, la radio di rock, la radio di folklore, la radio ovviamente che parlava di radio sociali, che parlavano in primis assolutamente di politica. Storicamente quali furono le prime radio che poi durarono? La prima che si ricorda fu Radio Bologna, che iniziò a trasmettere nel 74. Meno di un mese dopo iniziò Radio Parma, e una invece delle più famose, che poi fu quella che diede poi il là all'approvazione della legge del 76, fu Radio Milano International, che iniziò a trasmettere nel 75, ed è stata anche la prima radio che io ho ascoltato nella mia vita, Radio Milano International, quando ero piccolo. Questo come nota, poi magari sentiremo anche Roberto, Davide e Simone quali furono le loro prime radio da ascoltatori. Qui ricordiamo che oltre Simone non l'ha detto, perché lui ovviamente Simone sei timido, ma anche tu hai lavorato un pochino in una radio privata. Io ho fatto veramente un percorso un po' particolare, perché io per molti anni ho utilizzato la Citizen Band, quindi il baracchino, tutte le cose radioamatoriali, in maniera, diciamo, un po' anomala rispetto a come veniva utilizzata solitamente. Cioè, in realtà, cioè, quasi lo usavo come se fosse un'emittente radiofonica. E poi sì, per un anno intero abbiamo lavorato con Marco e Luca Casciola, abbiamo fatto una trasmissione in una radio a Roma, e quindi insomma abbiamo un po' vissuto quello che era un'esperienza in un momento anche, diciamo, accompagnava il nostro lavoro da produttori di podcasting, quindi poi alla fine comunque c'era una correlazione, no, in tutto questo. In realtà erano tutte esperienze che servivano un po' per evolvere ad arrivare a quello che poi facciamo oggi, insomma, no, con Runtime Radio. Comunque sì. Vabbè, io, come avete visto, ho scritto un papiro lunghissimo, infatti Simone si era subito preoccupato, perché ho fatto 12 pagine di storia della radio. Io ho fatto un super riassunto condensato, giusto per introdurre. Tra l'altro Vincenzo, perché... mi dice che ti sei dimenticato Radio Luna 1975 con Cicciolina, giustamente va bene, che faceva la radio, non so, voglio sapere neanche... ne ho saltate 10.000, ma sì, per voglia, riassunto. Però Cicciolina non potevi dimenticarla, esatto. Ragazzi, va bene, okay. Cicciolina. Poi non è mai neanche mai piaciuta, devo dire la verità. Comunque entriamo nel vivo della puntata, bene, che sì, è esatto. L'esperienza di Antonio, dici, cioè, innanzitutto, come hai fatto a dire faccio la radio, cioè quando è successo, come è successo, perché è successo, e poi se ci racconti un po' la tua esperienza. Sì, anche cosa stava succedendo nel momento in cui poi alla fine ha preso il via questo fenomeno, soprattutto magari nel tuo territorio in Sicilia, cosa stava succedendo, se erano cose che cominciavano ad interessare, no, a nascere, insomma un po' una panoramica, no, di quello che è un po' a livello introduttivo, poi magari andiamo anche in racconti più specifici. Vai Antonio. Io ho avuto una bellissima esperienza radiofonica e vorrei raccontarvi una breve storia, ma per farlo senza allarmarvi vorrei partire da quando andavo all'asilo. In quel periodo a casa mia madre armeggiava con una certa scatolina rossa con dei buchi, era il mangia dischi Penny. Ascoltava dei dischi come Luis Miguel, Renato Rascel, Romagna Mia, ste robe qua, Morandi. Era proprio il mangiadischi, mangiava proprio i dischi. Si infilava dentro e iniziava a girare e partiva magicamente questo suono. Ma li mangiava anche fisicamente, perché rovinava un po' tutti i vari 45 giri. Per noi bambini, quindi per me e mio fratello, c'erano i 45 giri delle sigle dei cartoni animati, Furia, Zorro, Sbirulino, Enrico Beruschi, Braccio di Ferro, ste robe qua. Erano gli anni della plastichina, il pongo da modellare, dei timbrini con gli inchiostri, le costruzioni, ma soprattutto del cinevisore Mupi, dove lì io e mio fratello guardavamo i cartoni animati. Gli unici che guardavamo erano quelli lì sulle bobine, mute per giunta. Chiudevamo un po' le finestre del salotto e guardavamo i cartoni animati. Un balzo avanti negli anni poi mi porta a ricordare il registratore a cassette di mio padre. Mio padre è sempre stato una persona molto religiosa, quindi frequentava la chiesa, dei gruppi cristiani dove si cantavano le canzoni della chiesa. abbandonato il mangiadischipenni, tutta la mia attenzione in quel periodo era rivolta alle cassette, e quindi ascoltavo io le cassette con le canzoni della chiesa, un po' indispettito da certe musiche, però comunque ascoltavo anche quelle. Ma ben presto misi le mani su una cassetta Bimbo Mix, e da lì partirono varie altre cassette. Lì c'erano delle canzoni veramente molto molto belle, nuove per me. C'era Gigi Sabani, Righeira, I Ricchi e Poveri. Per me quelli erano gli anni del Muppet Show, dei Banana Split, Super Gulp, i cartoni di Anna Barbera, non so, per ricordare qualcun altro, c'era Tom e Jerry, Shazam, Autogatto e Mototopo, e ancora Ciao Ciao, Bim Bum Bam, Five, telefilm come Chips e Ralph Super Maxi Eroe, ma soprattutto i film di Bud Spencer e Terence Hill. Adoravo letteralmente le canzoni degli Oliver Onions, infatti negli anni e ancora oggi ascolto quelle canzoni perché mi piacciono. Erano gli anni del Vic 20, Paper Soft, gli Errata Corrige, insomma erano begli anni. I ricordi pian piano mi portano avanti. Mentre facevo i compiti dalla camera di mio fratello arrivava a gran volume, ma proprio a gran volume, la sua musica preferita. C'erano i Pink Floyd, facevano una musica stranissima, non capivo. Alan Parsons, ancora più strana, non riuscivo a capire. Dire Straits, un po' di rock, Vasco Rossi, almeno c'era qualche parola in italiano. Io però ero attratto da quei pochissimi videoclip che qualche canale TV trasmetteva. Adoravo ad esempio Charleston di The Narrow e l'adoro tutt'oggi. Un videoclip credo sia proprio uno tra i più tamarri, però lo adoro veramente. Quelli per me erano gli anni delle partite a pallone, della pistola Condor e Leopard, della bici, del Commodore 64, con i bellissimi giochi, ma soprattutto con i programmi musicali che riproducevano a bassissima qualità brevi campioni di brani degli allora sconosciuti per me: Madonna, Beatles e Kirk Douglas. Chi non ricorda Kung Fu Fighting? Era giusto, Kung Fu Fighting, se non sbaglio. Quelli lì erano anche gli anni di Fame, il telefilm Saranno Famosi, e c'erano bellissime canzoni, tutti che ballavano, insomma tutto sempre girava attorno alla musica, ma soprattutto del bellissimo programma USA Today con Stefano Gallarini, ma soprattutto ancora di più il DJ Television e il mitico Jovanotti. Forse, cari amici, tutto, e dico forse, tutto è iniziato proprio da lì. Impazzivo per Gimme 5 ed era la prima volta che guardavo queste trasmissioni, che sentivo questa strana musica, Gimme 5, un ritmo veramente particolare, non avevo mai sentito qualcosa del genere prima di allora. E così accesi la radio AM/FM che aveva costruito mio padre, quello che si faceva con la scuola Radio Lettra per intenderci, e cercavo tutto il tempo quella canzone di Lorenzo Cherubini. In quel periodo proprio, a breve, stavo veramente tante ore nello stanzino di mio padre con uno stereo, quello a doppia cassetta, preparavo le cassette all'inizio di ogni canzone e secondo me facevo radio, forse sì, stavo iniziando a maturare la voglia, il concetto, ecco, di fare una trasmissione radiofonica. Facevo delle prove, presentavo le canzoni non sapendo quello che dicevo, però insomma quello che sentivo in radio fondamentalmente non mi piaceva, i speaker non mi piacevano, e tra l'altro, scusatemi, come darmi torto visto che avevo scoperto il DJ Television, no? All'età di 14-15 anni nel mio paese c'erano tre radio. Una era molto casereccia, ma proprio casereccia, credo fatta proprio a casa di una persona. Poi ce n'era un'altra un po' più giovane e un'altra che era il top. All'epoca, quando qualcuno voleva fare radio, era un percorso obbligato, si partiva da quella casereccia, si attraversava e così arrivava a quella un po' più giovane con molti ragazzi e poi si arrivava a questa splendida radio. Io non ho fatto questo percorso perché mi sono impuntato e un giorno mi sono presentato, avevo 14-15 anni, mi sono impuntato e mi sono presentato e ho detto: oh, voglio fare un provino. Mi hanno detto: no, sei piccolo, appena fai 18 anni torni, perché c'era questa diceria, non so, e a tutt'oggi non so se è vero oppure no, che non potevano fare radio i minorenni, perché non si assumevano la responsabilità di quello che potevi dire o di quello che potevi fare. Me ne sono andato, sono ritornato la settimana successiva, mi hanno ridetto no, me ne sono andato, sono ritornato la settimana successiva, e questo per 4, 5, 6 volte, forse anche 10, fino a quando un po' per sfinimento il proprietario della radio mi ha fatto fare un provino. Fatto quel provino, in realtà mi fa: beh, qualcosa c'è, fai un po' di saletta e inizi a fare la trasmissione. Da lì a un mese, dopo tante prove fatte in sala registrazioni, mi misero direttamente in onda, così. E nel 1991 inizia proprio lì la mia avventura radiofonica. Però, cari amici, ero tutto quello che non volevo essere e facevo tutto quello che io criticavo degli altri, quindi ero insoddisfatto. In mente avevo l'idea perfetta del perfetto conduttore, visto che avevo già assaggiato, ecco, l'esperienza radiofonica di gente come Linus, Gerry Scotti, c'era anche Giovanotti, c'erano tanti altri, mi faceva impazzire come parlava Stefano Gallarini. Però nel momento in cui ero davanti al microfono tutto questo non accadeva, e allora tutte le piccole cose buone degli altri le ho prese, pian piano le ho modificate e ho avuto una mia identità. E da all'epoca io non so le realtà italiane di quegli anni come erano, ma quelle sicule erano prettamente, era Vasco Rossi, andiamo ad ascoltare Renato Zero, era Nilla Pizzi, andiamo a ascoltare quest'altro. Senza notizie, senza curiosità, io ho iniziato a dare notizie, a dare curiosità, prendevo i ritagli del giornale di Sicilia dove c'erano notizie che riguardavano la musica, che riguardavano anche il cinema, avevamo delle sale cinematografiche nel mio paese, quindi davo notizie sui cinema, tutte queste cose qua. Ovviamente venivo guardato un po' con gli occhi storti, perché ero quello controcorrente, tutte le radio facevano una determinata cosa. Pronto? Io avevo le battute, okay. Io esaltato. Mi sentite? Sì, vai, scusa. Si è saltato un attimo la voce, adesso è ritondata, vai pure. Ecco, non so quanto vi siete persi. Però no, niente, era proprio una frazioncina di secondo che si è ammutato. Ah, ecco, e quindi insomma io facevo tutt'altro e da lì tutte queste piccole cose diverse mi portarono ad avere una certa notorietà, e da lì iniziai a fare serate con un gruppo di DJ, ad esempio in radio preparavo le basi personali mie, perché tutte le versioni strumentali di Barry White e di altri cantanti, di altri artisti, venivano utilizzati dai veterani della radio, no? Allora io me li preparavo da solo a casa con l'Amiga 500 in quel periodo. Facevo delle serate da ballo con i gruppi che facevano musica dal vivo, e io invece facevo il DJ, mi portavo l'Amiga 2000 e l'Amiga, il Commodore Amiga 500, preparavo dei remix a casa di brani famosi e li proponevo così durante le serate, intercalando musica dal vivo e musica da discoteca. In quel periodo sempre di notorietà, ecco, dei musicisti mi sentirono in radio e, vedendo come interagivo con il pubblico durante le serate nei locali, mi vollero accantare con loro, e nel 98 partì un'esperienza durata ben 17 anni, cantavo in questo gruppo e mi divertivo anche. Insomma, la radio mi ha portato a fare tante tante cose, a conoscere tante persone e soprattutto a formarmi come persona. Dalle pubblicità nelle cassettine che giravano nelle piastre Iowa, dai giradischi Technics SL1002 e i 33 giri ai CD, passando per il mini disc fino ad arrivare all'era totalmente digitale, riuscendo a fare le trasmissioni radio in diretta dai locali, nel passato di tempo, amici, ma nel passato davvero tanto. In questo momento mi reputo un ragazzo molto fortunato, perché ho vissuto forse il periodo più bello delle radio, quelle della crescita, quelle in cui si puliva il 33 giri perché se no saltava, quello che non bisognava battere sul mixer perché saltava la puntina, fino ad arrivare alle conversazioni che si avevano in piazza finendo la trasmissione, quando ti fermavano e dicevano: dai, ho ascoltato questa canzone veramente bella, ma sai che questa cosa non la sapevo. Quindi Per me la radio fondamentalmente è stata la mia vita e quindi molto probabilmente oggi sono quello che sono proprio grazie a questa esperienza che è durata per 25 anni. Poi, cioè, sin da subito è diventato un lavoro, perché dopo i primi mesi, forse dopo il primo anno, iniziavo comunque a frequentare tanto la radio, ho abbandonato gli studi, stavo tutto il giorno in radio per organizzarmi una trasmissione. Io ascoltavo almeno 3 ore di musica, entravo nell'archivio, tiravo fuori una pila infinita di 33 giri, ascoltavo. Non conoscevo nulla, però ascoltavo. Questo mi piace, lo metto in trasmissione. Questo no, non mi piace, lo metto da parte. Da lì ben presto è diventato proprio un lavoro, quindi ho abbandonato gli studi per lavorare, facevo già le serate, quindi mio padre è stato molto gentile con me perché iniziavo a guadagnare dei soldi, sapeva che frequentavo gente più grande, comunque gente responsabile, che ero nei luoghi in cui non c'erano particolari casini e pericoli, ecco, ma soprattutto lavoravo. E quindi è diventato subito un lavoro che poi ho abbandonato qualche anno fa perché non venivo retribuito abbastanza, quindi ho fatto altre esperienze, ho aperto una caramelleria tutta mia, da lì ho voluto cambiare vita, anzi ho cambiato totalmente vita e mi sono trasferito qua al nord, passando da una fabbrica di croccantini e adesso invece lavoro in DHL, quindi mi manca, la radio mi manca, però grazie alla radio sono quello che sono, un ragazzo certo. Fortunato. Hai fatto anche una figlia nel frattempo, giusto per... Sì, ho fatto una figlia, ho degli amici musicisti che mi hanno parlato di un percorso particolare fatto con i bambini appena nati, quindi ascoltare musica classica perché è una musica colorata, ascoltare il jazz perché è una musica colorata. Io ho iniziato questo percorso con mia figlia sin da quando era dentro la pancia della mamma, però adesso credo che sia giusto fare un percorso del tutto naturale, ecco, le faccio ascoltare i miei dischi, però anche lei ascolta queste canzoni moderne e magari le piacciono anche, però per fortuna per ora è indirizzata sulle cose da bambina, quindi mi va bene così, ecco. Senti, allora, quindi per fare un po' iniziare magari anche a chiedere un po' di curiosità, quindi tu praticamente piuttosto che il vero albore, diciamo, pionieristico, no, delle radio che da pirata sono diventate libere, tu sei entrato quando le radio iniziavano a fare degli step in avanti, quindi una sorta di progresso anche dal punto di vista tecnico, penso, no? Cioè, per esempio, la prima radio nella quale tu hai lavorato, no? Come era strutturata? Cioè, che radio era? Come era? Come funzionava? Allora, le radio in cui ho lavorato, io ho lavorato in tante radio negli anni, sia nel mio paese che poi in provincia, cambiando anche nome in alcuni casi perché lavoravo in più radio contemporaneamente. Ah, ok. Sì, era una pratica che si faceva, insomma, soprattutto il finto regista, no? C'era il finto regista dall'altra parte del vetro, ma in realtà non esisteva. Che eri sempre tu, praticamente. Che ero sempre io. Ne avevo uno che si chiamava Duccio, non so neanche perché, ma io lo chiamavo così. Mi piaceva. Tutte queste radio, soprattutto nel mio paese, sono nate nel 76, quindi comunque proprio all'inizio delle radio libere, relativamente libere, perché ho sempre pensato che in radio, in tutte le radio, ci fossero delle regole interne volte particolarmente alla censura. Io mi sono sempre ribellato su questa cosa, quindi c'erano delle parole che non si potevano dire, degli argomenti che non si potevano assolutamente trattare e via dicendo. La radio dove ho iniziato io era già una radio importante, ma con lo stile classico. Quindi, come dicevo prima, era e andiamo a ascoltare. Le telefonate, le dediche, le richieste. Quando ho iniziato io, all'improvviso iniziarono ad arrivare le lettere, quindi le lettere con le richieste, con delle scalette ben precise, man mano andando avanti poi c'erano i fax e tutto il resto, veniva molta gente a trovarmi e questo creava un po' lo scompiglio in quella radio che fino a quel momento era comunque una radio ben ancorata in una certa metodologia. A livello tecnico, beh, si andava con i 33 giri, beh, e quello, io avevo delle cassettine, mi portavo pure delle cassettine, realizzavo man mano, io sono sempre stato curioso, in fin dei conti, per l'elettronica, per quello che sono i meccanismi, per quella che è l'apparecchiatura. E un giorno mentre preparavo le bobine sul Revox per la musica notturna, perché di notte andavano due Revox, finiva uno e con il timer poco prima che finisse attaccava l'altro Revox, quindi tutta la musica notturna era registrata con una precisa scaletta. Imparai a usare il Revox per fare i miei stacchetti, i miei jingle della trasmissione, si chiamava Music Box, che poi ho portato con me negli anni con affetto anche in altre radio. Scoprivo che accelerando il Revox, registrando prima, che so, qualcosa del tipo mew mew mew mew mew, e poi lo mandavo in play accelerando e decelerando, veniva fuori qualcosa tipo mew mew mew mew mew mew mew Music Box, no? Oppure tagliando il nastro, incollandolo, oppure ancora avendo un effetto semi-eco, mettendolo in registrazione e aprendo il canale mentre parli con il microfono, il segnale entra ed esce con il ritardo, quindi veniva un po' fuori l'eco, e così imparai a fare tante cose. Per fare un montaggio utilizzavo 3-4 piastre contemporaneamente, due giradischi e il Revox, e veniva fuori uno stacchetto un po' più particolare. All'epoca non c'erano jingle particolari per le trasmissioni, se non quelle realizzate dalle ditte che poi facevano le pubblicità, quindi con voce classica, bella impostata. Invece io ero già sregolato sin dall'inizio. E poi tutte le pubblicità venivano passate nelle cassette. Erano gli anni comunque credo rivolte alla modernità. Io ho iniziato intorno al 90-91 e già comunque c'era una predisposizione per l'innovazione. Il CD è arrivato dopo, in quella radio dove lavoravo io. Fino a quell'ora si lavorava con i 33 giri e con tutte le problematiche del caso, anche a livello di apparecchiature. Man mano ho visto arrivare apparecchiature nuove, quelle digitali, fino ad arrivare, come dicevo prima, nel racconto a quello che è il digitale attuale, lavorare con gli MP3, una regia automatica, cose che all'epoca era praticamente inconcepibile per quel tipo di radio. Beh, certo, non c'erano le tecnologie, quindi giustamente era un po' più complicato, soprattutto magari a certi livelli, no? Poi magari, insomma, sicuramente le radio più importanti forse magari in qualche maniera avevano qualche ausilio. Poi magari ce lo dice Carlo, no, che è un po' l'esperto di tecnologia. Però volevo coinvolgere anche Davide, perché io ricordo, cioè a me fa impressione il fatto che noi oggi comunque, lo sto dicendo anche in un nuovo podcast che stiamo pubblicando, no? che si intitola Te la costruisco io la web radio, noi oggi comunque sappiamo che, volendo proprio massimizzare con poche centinaia di euro, no? Ci si mette su insomma una struttura in grado di essere autosufficiente, essere autonoma ed essere anche tecnicamente abbastanza qualitativa, quindi parliamo di livellatori, limitatori, compressori, equalizzatori, cose che insomma poi alla fine oggi sono alla portata, no? Ovviamente non stiamo parlando delle attrezzature pro, quelle insomma proprio da stazione radio. E invece mi viene l'immagine, Davide, di una persona che ho conosciuto io quando ero molto piccolo, da ragazzino, tramite mio cugino che era già grande e costruiva cose, faceva un po' quello che fai te, no? Mixer, faceva un po', dove c'era questo scantinato dove c'erano questi tizi con due giradischi, dei microfoni, della roba buttata lì e facevano la radio. Cioè, nel senso, la radio resta ed è resterà sempre uno strumento meraviglioso, soprattutto perché quando sei a parlare lì, soprattutto di notte, poi magari sentiamo anche Antonio pure su questa cosa, e comunque c'ha la sua magia. Però pensare comunque all'epoca in cui con tre strumenti dovevi fare quello che facevi, tutto sommato c'aveva proprio anche il senso dell'avventura, no? Davide, ti è mai capitato di vedere qualcosa, qualche studio, qualcosa del genere, un po' accroccato anche, no? Io ho visto, allora, io ho abitato per molti anni a Cinisello Balsamo, che è un paese della provincia di Milano, e in quegli anni in cui iniziavano a esserci tutte le radio libere, mi ero preso un appunto per fare una battuta dove per radio libere non si intendeva che erano libere veramente, ma si intendeva che occupavano delle frequenze libere, ma non per i contenuti, così magari all'inizio c'era la libertà limitata. Io quindi l'ho interpretata come che occupano frequenze libere, non che siano libere veramente. Comunque, e c'era questi, io lavoravo in un negozio di componenti elettronici, come tutti sanno, e venivano da me spesso molte persone a comprare dei pezzi, eccetera, tra cui un ragazzo che in qualche modo stava mettendo in piedi una radio, che ha iniziato scherzando. E lui abitava all'ultimo piano di un palazzo di Cinisello, e a casa sua ha messo su un'antenna sul tetto, ha comprato dei pezzi anche da noi in negozio, proprio dei trasmettitori, vendevano in scatola di montaggio che già fatti magari della GVH, c'erano varie aziende che vendevano questi trasmettitori da tipo 5 watt, 3 watt, che avevano una copertura, oserei dire, dell'edificio in cui era, o poco di più, di 10 edifici intorno. E lui aveva iniziato così con questo spirito, come i tuoi amici nello scantinato, con le difficoltà poi uscire dallo scantinato per trasmettere, perché bisogna come minimo arrivare sul tetto. Lui invece era agevolato perché era già all'ultimo piano, da fuori dalla finestra. Io ho detto lo scantinato perché mi ricordo questa stanza, oggettivamente non è che mi ricordo se stavano al primo piano o sotto o sopra, mi ricordo questa, diciamo, stanza un po' buietta con una sola luce, con questi microfoni, con queste cose, e questi praticamente erano contenti perché stavano per fare una cosa, quindi la stavano allestendo, tra l'altro, questa cosa, non è che la stavano facendo. Quindi immagina, no? Che poi magari l'hanno arrestato il giorno dopo, io questo non lo so, però insomma, capito, per capire il fatto che comunque il fascino stava anche nel sapere che con quello che tu avevi a disposizione potevi arrivare, che noi oggi, e questo un po' lo raccontiamo spesso anche Carlo, no? Noi oggi arriviamo ovunque, potenzialmente, no? Cioè noi con un click potenzialmente noi arriviamo ovunque. Noi trasmettiamo su internet, e se adesso qualcuno va su Google, dalla Giamaica, esatto. Poi non capisce niente, dall'altra parte del mondo, come diceva Guzzanti, aborigeno, io e te che sei da un mutatino. Però una volta solo il pensiero di riuscire a comunicare al di fuori di un determinato contesto era già da vertigine, no? Cioè, nel senso, comunque era un'emozione, no? Era un qualcosa di la possibilità di comunicare, tra l'altro trasmettere musica, come dicevamo, che non si trasmetteva regolarmente magari nelle RAI, insomma, cioè quell'unica stazione o due stazioni, poi sono diventate tre e via dicendo. Ecco, questa è un po' la cosa che mi ha sempre affascinato. Non so se è una cosa che riscontrate anche voi, questo senso del pionierismo, della trasformazione, del qualcosa che da lì può solo che migliorare, può solo che crescere. anche sentiamo un attimo Carlo, Roberto e poi Antonio, invece gli volevo chiedere per dopo il discorso appunto della radio di notte, no? Perché noi siamo abituati, per quelle persone che hanno avuto l'opportunità di entrare dentro una radio, oggi anche una radio media, anche medio piccola, comunque ha sempre un X numero di persone all'interno, c'è sempre un tecnico, c'è sempre comunque qualcuno. Invece mi immagino che una volta, magari all'inizio degli anni 90, in una radio medio piccola, magari di una zona particolare della geografia italiana, di notte magari ci stai pure da solo, cioè la dovevi gestire tu la radio, no? Quindi ricordiamoci questa cosa, però prima sì, partiamo da Carlo, scusa. Per rafforzare quello che stavi dicendo, in realtà questo è un po' un tema che affrontiamo spesso quando eravamo Futuro, e un po' in generale nelle trasmissioni che facciamo in Runtime Radio. Anzi, il buon Antonio prima praticamente nella sua introduzione ha fatto il riassunto delle precedenti puntate di quando eravamo Futuro, praticamente parlando, abbiamo parlato di tutto, sì, quella, esatto, che era la sua infanzia, praticamente ha tirato in ballo tutti gli argomenti che avevo trattato nelle varie puntate di quando eravamo Futuro. E come dicevo, in realtà noi abbiamo visto la nascita e la diffusione, l'abbiamo vissuta in prima persona, perché essendo nati in quegli anni, Davide sicuramente con un po' più consapevolezza di questa cosa che stava succedendo, perché ha quei 5 anni in più di me e qualche anno ancora più di te, di Simone e di Roberto, e quindi ha visto vedere nascere un nuovo media praticamente negli anni 70 e diffondersi negli anni 80 e diventare grande e poi raggiungere la maturità negli anni 90 quando ha iniziato Antonio. Ed è ovvio che chi ha iniziato in quegli anni, sia dal punto di vista dell'ascoltatore, cioè io me lo ricordo come ascoltatore, accendere la radio e sentire girando la manopola decine di stazioni di trasmissioni diverse che iniziavano a trasmettere, a sperimentare, a fare cose. Ricordiamoci anche le trasmissioni sperimentali di trasmissione di software. Ne abbiamo parlato l'altra volta. Quegli anni, no? Sì. Per esempio. Ma proprio una novità e si sentiva l'entusiasmo dall'altra parte, che era contagioso, infatti veniva voglia di fare anche la radio, di trasmettere. E poi è successa la stessa cosa nelle televisioni private, nella nascita delle TV private di quegli anni. Questa voglia c'era sicuramente, perché era come noi adesso che tra virgolette stiamo sperimentando. Noi abbiamo visto da protagonisti la nascita del podcasting alla fine, perché il podcast non c'era prima, poi a un certo punto l'hanno inventato. Soprattutto tu, Simone, sei stato uno tra i primi in Italia a farlo. No, non sono stato uno dei primi in Italia, però uno dei primi, sì, sono stato il primo network di podcast in Italia, quello sì. Quindi comunque fai parte di quella sperimentazione, e adesso che raggiunge la sua maturità, che sta diventando qualcosa di serio, che ormai tutte le radio trasmettono via web, via trasmissione, anche noi un pochino ci sentiamo parte di questa rivoluzione. Quindi in quegli anni sicuramente molti erano, diciamo, attratti da questa nuova sperimentazione. Io parlo e mi sentono in tanti, è una cosa che prima non si poteva fare, poi si è iniziata a fare in quegli anni lì, insomma. Roberto? Eccolo, allora io vorrei dividere in due parti il mio ricordo. Uno è il ricordo, quindi l'esperienza vera e propria, due era quello che pensavo io di questo fenomeno, che paradossalmente è diverso. Veniamo all'esperienza. Milan, quindi c'erano molte di queste cose. Quelle che ricordo io erano essenzialmente serali o notturne, e con spirito goliardico, a volte anche abbastanza scurrile. E io credo che fosse questo divertimento, questa avventura, fosse anche una delle cose che causavano, insomma, che spingevano a fare questo tipo di esperienza. Adesso non so se Carlo ricordi Radio Fanfulla. Sì, me la ricordo. Era una radio goliardica milanese della zona, proprio della zona vicina dove abitavo io, che trasmetteva appunto, faceva trasmissioni essenzialmente goliardiche e da ridere in pratica. Sì, mi ricordo. Sì, da ridere, che alla fine erano le cose che si discuteva, insomma, nei gruppi che si facevano questo genere di cose. E Paradossalmente io qualche volta l'ho sentita alla radio, ma la cosa tra virgolette buffa è che giravano delle cassette con le registrazioni di delle parti migliori di tutte queste cose, ed erano appunto o cose goliardiche o canzoni rivisitate in modo goliardico, quindi tutte le varie canzoni, non so, Margherita e quant'altro, che venivano poi rese in senso goliardico, e c'erano ovviamente anche molti gruppi che facevano questo genere di musica. Non per niente, insomma, l'area milanese lombarda fu abbastanza fertile con tutti questi gruppi famosi, ironici e goliardici. Quindi questo è il mio ricordo legato alla radio e alle registrazioni della radio che giravano su cassetta. Mentre paradossalmente quello che invece era la concezione che avevo io, che però non ho mai davvero vissuta, è quella della, forse un po' anglosassone, della voce libera nella notte, voglio dire, che ti tiene compagnia e che magari non è nemmeno esistita, perché è una favola cinematografica che abbiamo ascoltato, però è quella che piace sentire. Come mi viene in mente, non so, i Guerrieri della Notte con la radio, con la tizia che racconta la guerra che si fa durante tutta la notte. Quindi questa voce profonda che ti tiene compagnia di notte o che ti racconta delle cose, e soprattutto quelle libere, tra virgolette, quindi non di Stato, o sebbene c'è stata la trasformazione da pirata a libera, ed è vero quello che dice Carlo, libera voleva dire semplicemente che andavano su canali liberi, anche se non sempre così, perché sempre a Milano il centro sociale Leoncavallo fece una radio, credo negli anni 90, questo, se non ricordo male. Sì, sì, però, Radio Onda Diretta. Radio, tra l'altro, il centro sociale Leoncavallo era, adesso non è più, era, in, non c'è in più, linea, esatto, d'aria a 250 metri. 92, nel 92 iniziò a trasmettere Radio Onda Diretta. Esatto, anche se loro lo facevano per rubare frequenze alle radio commerciali, almeno sì, questo dicevano. Sì, sì, sì, sì. Sì, loro non si definivano radio pirata strettamente, perché in realtà era chiaro dove trasmettevano, cioè trasmettevano, lo dichiaravano che trasmettevano dal centro sociale Leoncavallo, quindi si sapeva dove erano e dove. Sì, Leoncavallo, sì. Esatto. E Leoncavallo era, per pochi che non lo sapesse, è stato un centro sociale milanese molto importante, che ha ovviamente fatto anche legato anche alla politica, insomma, per diversi anni, è durato un bel po' di anni a Milano, e c'è stato anche questo tra le tante cose che ha fatto Leoncavallo, c'è stata anche questa sperimentazione di Radio Onda Diretta, che era una radio che trasmetteva senza avere diciamo permessi sulle frequenze, era contro anche il decreto Mammì. Adesso qua il discorso è complicato. Vabbè, sì, sì, ok. Ma d'altronde era anche nella logica, insomma, del tipo di trasmissioni. Tra l'altro, Roberto, poi voglio tornare un attimo da Antonio. Se ti manca la voce calda nella notte, ti telefono io, non c'è problema. Ti telefono, ma ti, vai tranquillo, ti faccio Roberto. Ricordiamo che c'è il runtime di notte. Esatto, no? Tra l'altro, sì, tutte le notti in replica. E domani sera alle 23 saremo live con la solita puntata del venerdì sì, venerdì no. Però volevo tornare a questa cosa della notte, perché innanzitutto qui si aprirebbe un mondo di esperienze. Però voglio sentire Antonio, perché sicuramente ce n'è da raccontare. Però devo dire che se la radio, con quelle radio che poi sono diventate le radio commerciali, no? Una volta si chiamavano le radio libere, prima ancora le radio private, quindi hanno, cioè, pirata, quindi hanno cambiato nome, diciamo, costantemente nel tempo. Però se le radio, soprattutto all'inizio, erano di profonda sperimentazione, come ha detto anche Carlo, nella notte, durante la notte, spesso e volentieri erano ancora più sperimentali. E a Roma, in maniera particolare, c'è stato il fulcro di un certo tipo di secondo me fare radio, perché c'erano una marea di radio che trasmettevano di notte, dalla politica allo sport, al reportage, al tizio che andava in giro a guardare cosa succedeva nei quartieri, a chi faceva discussioni filosofiche. C'era un mondo che veramente si apriva improvvisamente con il tipo di trasmissioni che sicuramente durante il giorno non avrebbero funzionato. Poi io conosco bene la realtà romana, perché la realtà romana è una realtà piena di talk radio, cioè proprio radio basate sullo speech piuttosto che sulla musica e via dicendo. Quindi insomma, in realtà so questa cosa della sperimentazione, però ecco, chi l'ha fatta la radio di notte, no? Noi ogni tanto la facciamo, ci piace, perché comunque accendere una live alle 23 già inizia ad avere un sapore, sapere che stai parlando all'una, alle 2 di notte, che c'è pure qualcuno che ti ascolta, che quella è la cosa incredibile, c'ha un sapore tutto suo, no? E quindi Antonio, questa cosa della radio di notte, immagino che tu insomma l'esperienza l'abbia fatta, no? Beh, considera, la radio e la notte è un mix perfetto. Bestiale, sì. Bestiale. Io in tanti anni di esperienza ho fatto tutti i tipi di trasmissione che potevo fare, cambiando genere, cambiando stile, facendo dei personaggi. Quindi poco fa Roberto parlava di Radio Goliardica, facevo delle trasmissioni goliardiche, facevo dei personaggi, facevo il buffone, il contadino, il DJ Tamarro, insomma inventavo tutto quello che potevo inventare. Erano anni veramente belli per inventare di tutto e di più. Però Roberto ha parlato di una cosa che infatti mi sono un attimo chiuso in me stesso. Ha detto una cosa bellissima, quella della radio di notte in cui c'è una persona che a luci soffuse apre il microfono e parla, racconta delle cose, parla di cose, parla di storie, racconta le storie. Poi magari ogni tanto parte anche un brano. Questo è sempre stato il mio sogno. Questo proprio così non l'ho mai fatto, ma è sempre stato il mio sogno. Io in alcune radio sono arrivato a fare anche 5-6 trasmissioni al giorno, diverse. Diversificavo l'orario e quindi il genere e lo stile, da quello pimpante della mattina a quello più carico del pomeriggio, fino ad arrivare man mano alla sera. E in alcune radio le trasmissioni notturne, che secondo me non hanno la stessa valenza di quelle live, le registravo, quindi non c'era nessuna interazione con il pubblico che ascoltava. Quello di fare la trasmissione di notte per me è stata forse l'esperienza, una tra le esperienze più particolari, perché di notte passavi quella musica che di giorno magari non potevi. Quindi di notte in una sala diretta, con magari di notte si spegnevano un po' le luci, quindi la radio era un po' con le luci soffuse, magari non eri da solo, eri con qualcun altro, si aprivano certi argomenti trattati in maniera magari un po' superficiale, ma soprattutto la musica era diversa. E allora c'era il periodo in cui trasmettevi il jazz di notte, musica fusion, musica sperimentale, mettevi Donald Fagen, mettevi tutta quella musica che normalmente di giorno, per un motivo o per un altro, non veniva mai trasmessa. E l'atmosfera era differente, si parlava in maniera differente, ci si metteva un po' con questa voce un po' più calda, che vabbè faceva l'effetto che faceva. All'epoca magari si avevano i Sennheiser come microfoni, che comunque erano dei bei microfoni, con un po' di regolazione al mixer veniva fuori qualcosa di interessante. Interagivi però con le persone, anche se trasmettevi musica new age, c'erano le persone che ti ascoltavano. La stragrande maggioranza di persone erano quelle che lavoravano, Bellissime erano le serate in cui il cornettificio, arrivato a un certo orario, suonava il campanello della radio o telefonava dicendo: guarda, sono qua fuori, vi ho portato i cornetti. Lo stesso dicasi per il bar, che ci portavano delle cose da bere a tarda notte proprio. La gente ascoltava la radio, forse interagiva di meno, perché anch'io da ascoltatore ascoltavo la radio di notte e non avevo quella voglia di interagire. Entravo in un mondo mio personale, ascoltavo la radio, ascoltavo quelle radio di notte che raccontano delle storie, che mettono magari Santana e la musica un po' più particolare. E anche dei ragazzi ascoltavano la radio, poi magari erano gli stessi ragazzi che nel pomeriggio ti facevano un colpo di telefono e ti raccontavano della notte che avevano ascoltato te mentre magari erano coricati. L'esperienza è bella, l'esperienza è qualcosa di magico. Fare radio di notte è magico. Per me tutto quello che si fa di notte come attività, non parlo di lavoro ovviamente, ma parlo di attività anche hobbistiche, e per me ha un gusto e crea delle sensazioni magiche differenti da quando si fa la stessa cosa di giorno. Quindi per me radio e notte è una bomba. Infatti adesso è notte, quindi. Beh, notte si intende un altro tipo di notte, no, in generale, però comunque sì, cioè, secondo me comunque l'atmosfera adesso mangi... c'ho sonno e quindi è notte. Ah, per te no, vabbè, ma tu c'hai sonno. No, perché poi, come dice giustamente anche Vincenzo, adesso vi dico cosa ha detto, perché intanto se n'è andata la chat. Ah sì, ok, la notte. Vabbè, la notte per antonomasia è sempre un alone di fascino e intriso di mistero e magia. In effetti il discorso è proprio questo, cioè, per quanto questa sia una frase che uno abbia detto mille volte o sentito e risentito mille volte, in realtà è, secondo me è profondamente vera, perché la radio già di per sé, comunque, se sei un ascoltatore, ti piace ascoltare la radio, ti piacciono le voci, e magari uno speaker che racconta una determinata situazione o che fa uno show da solo, ovviamente con le sue riflessioni intercalate magari dei brani, già questo ti porta a immaginare, no? Cioè, perché poi c'è questo rapporto con la voce che tu ascolti e ti immagini come può essere la persona che tu stai ascoltando, e in più mettici anche un'atmosfera così ferma, così riflessiva, così rallentata come quella della notte, è quello, hai ragione Simone, è proprio quello. La predisposizione, normalmente non ci sono grossi rumori, il tempo rallenta, per cui abbiamo modo di pensare, di ragionare, riflettere quello che è stato nella giornata. Secondo me è importante quello che ascoltiamo, ma è l'atmosfera, il modo in cui la riceviamo che è diverso. Io ero notturno, adesso molto meno perché sono invecchiato purtroppo, ma io mi sono laureato di notte studiando fino alle 3. Mm-hmm. Perché? Perché non c'era nessuno, non avevo distrazioni, non c'era nessuno fuori dalla finestra, e anche avere qualcosa di sottofondo, qualcuno che non necessariamente ascoltava esattamente quello che mi stava dicendo, però è una sensazione, una persona che senti che è lì. E ti dico una cosa, prima si è parlato di registrazioni, non è la stessa cosa. Non so perché, è una cosa psicologica, però sapere che tu sei di notte, cioè qualcuno da qualche parte, sia in uno scantinato, in uno studio, non lo so, che è lì in quel momento, sta dicendo quelle cose, non è la stessa cosa che sentire... Cambia tutto. Anche se da un certo punto di vista, se non te lo dicesse, magari non lo sapresti nemmeno, voglio dire, però... Una volta che in qualche modo lo sai e lo senti, psicologicamente cambia totalmente l'impatto che ha su di te. È una sorta di, non so, di empatia, chiamalo come vuoi tu. Per cui questo insieme di cose la rende magica, cosa diceva Vincenzo, è vero. Io vorrei ricordarmi insieme a voi anche di un periodo bellissimo a proposito di notte, e in qualche modo c'entra la radio, in qualche modo, per vie proprio molto larghe, traverse anche. Prima di iniziare a fare radio avevo un ricetrasmettitore Alan 38, più comunemente chiamato CB baracchino. Sì. Già, ne ho parlato prima all'inizio. Quando, insomma, le mie attività serali erano ben precise. Prima proprio che io iniziassi a conoscere la musica, iniziavo a collegarmi, cercavo, ascoltavo. Un giorno iniziai a interagire con delle persone e incontrai una persona che all'improvviso iniziò a parlarmi di musica, iniziò a parlarmi di radio, iniziò a parlarmi di musica, iniziò a parlarmi dei Pink Floyd, raccontandomi cose che io neanche immaginavo. Da lì, pian piano, su quello stesso canale, durante le nottate, le lunghe nottate, si collegavano altre persone, quindi si facevano vive tra una frase, un racconto e un altro, si facevano vive fino ad arrivare ad avere veramente tante persone che seguivano questa persona, che poi è diventata amico mio, è diventato un grande amico, a tutt'oggi gli voglio veramente tanto bene, Simus. E questa qua è un'altra di quelle esperienze pre-radio e pre-radio di notte che secondo me ha il suo fascino, appunto parlare con qualcuno di notte, lontano, e magari non si conosce, questa interazione particolare, poi nello specifico parlare di musica, parlare di radio, anche se all'epoca ero proprio all'inizio, era l'epoca dello stanzino, stavo nello stanzino di mio padre, come vi raccontavo prima, era quello il periodo di crescita mio personale, anche a livello culturale, e un fascino incredibile. Ragazzi, la notte è sempre magica. Sicuramente, anche perché c'era un maggiore, come dire, di giorno magari con la trasmissione classica avevi degli impegni, dei ritmi da seguire eccetera, la sera invece sai che hai la libertà totale anche mentale di gestire la cosa, e quindi vai in relax e esprimi il meglio di te stesso, secondo me, quando sei in questa intimità così la sera dà questo tipo di effetto. Beh sì, anche perché secondo me se è coinvolgente per chi ascolta, lo è anche per lo speaker in qualche maniera, no? Perché anche il riflesso di quello che anche lui ha intorno, come diceva Roberto, no? Comunque l'assenza in qualche maniera sia di persone, magari in certi sensi, che di rumori, quindi di ritmo, e ti accompagna anche nel modo in cui tu ti approcci allo speaking in quel momento, no? E quindi chiaramente si crea proprio questo connubio, se no ci sono delle cose che poi tra l'altro vedo, insomma, che questa cosa della radio di notte ha accompagnato in tanti, perché anche Michela giustamente ci ha scritto un messaggio, poi ho detto ragazzi, se volete fare dei commenti potete mandare anche degli audio, che magari in qualche maniera li trasmettiamo. Però ho visto che con Antonio abbiamo fatto lo stesso percorso, paradossalmente, perché anch'io ho giocato molto con, per esempio, con i primi registratori, raccontavo storie, facevo cose, no? E col CB in particolare, in realtà, appunto, come ho detto all'inizio puntata, l'ho utilizzato molto come strumento, a volte essendo poi uno strumento asincrono, cioè non essendoci un'interazione diretta, ma un'interazione a turni, diciamo così, spesso e volentieri la utilizzavo come radio notte, no? Cioè, nel senso, e quelle persone, insomma, che mi conoscevano sapevano che quell'ora arrivavo io, attaccavo con la portante e parlavo, dicevo cose, magari facevo sentire qualche suono, qualche musica o cose del genere, ovviamente tutto tramite il microfono, quindi voi immaginate, insomma, però tutto sommato la cosa era divertente, no? Ti dava quel sapore, quella sensazione, quindi alla fine se questa cosa in qualche maniera ha fatto parte di te, no? E sapevi che prima o poi in un modo o nell'altro avrebbe fatto parte della tua vita, anche se solo per un pezzo di percorso, è chiaro che è naturale, no? Quello che ne esce fuori. E invece una cosa che volevo domandarti, sempre relativamente al, ovviamente tu hai fatto trasmissioni musicali, come dicevi, anche quindi passavi pezzi, passavi brani, no? Ma all'epoca, quando si usavano ancora i giradischi, per esempio, il discorso di parlare sull'intro della canzone si faceva, oppure una cosa, cioè si finiva di parlare e si metteva il disco così? Beh, in realtà tanti iniziavano a parlare, partiva il disco, partiva il cantato e succedeva un casino, no? Perché non, tecnicamente non si faceva. Altri, per non arrivare a fare questo errore, presentavano la canzone, cioè finiva il brano in silenzio, presentavano senza alcuna base la canzone successiva e avviava il disco. Per me era tutta un'altra cosa, perché io, come dicevo prima, detestavo questo modo di fare radio. Allora io avevo le basi, quindi sul finire funzionava così per me: sul finire della canzone iniziavo a parlare, perché avevo sempre tante cose da dire. Finiva la canzone, con la mano sinistra mi ricordo che premevo la barra della piastra Iowa, che era stretta e lunga, partiva la base, io alzavo il cursore, continuavo a parlare, poi nel momento in cui stavo per finire abbassavo il cursore e facevo partire il disco, tutto con una naturalezza incredibile. Come si faceva? Beh, io passavo, come dicevo prima, delle ore in sala registrazione, quindi io ascoltavo tutte le canzoni che avrei poi messo in onda, potevano essere 15-20 dischi, ascoltavo tutte le canzoni che dovevo passare, quindi memorizzavo in testa o su un pezzo di carta addirittura più o meno il tempo necessario prima che iniziasse il cantante a cantare. Ecco, funzionava più o meno così per me, quello che praticamente poi hanno fatto le regie automatiche, che si setta l'inizio, l'intro e la fine. Sì, sì, infatti dicevo, quando tu eri, quando si faceva a mano i tempi, quello facevi tu, dovevi essere bravo. Adesso, se vai a vedere, beh, le radio, adesso dovevi conoscere la canzone più che altro, e adesso hanno i timer automatici, sì, che riesce, sì, sì, ma anche, no, ma anche noi ce l'abbiamo, perché comunque nella, il problema è che quando tu, adesso facciamo una cosa proprio più tecnica, così magari è una curiosità che può interessare a tanti, no? Però quando tu hai un software di regia con il quale ovviamente fai un certo tipo di lavoro e hai un database di 100.000 canzoni, diciamo che questo lavoro è un lavoro che si fa man mano che le canzoni vengono caricate all'interno del, sì, sì, sì. Quindi c'è sempre un tizio che scrive, cioè che mette nei metadati ovviamente del brano che viene caricato quanti secondi sono l'intro, quanti secondi sono l'outro, e quindi poi alla fine lo speaker si regola di conseguenza. Guarda, io stavo in media 8-10 ore in radio al giorno, e uno dei miei lavori, proprio soprattutto quando è arrivata, eravamo all'inizio della regia automatica, uno dei miei lavori era questo. La gente, alcuni magari avevano iniziato già a caricare della musica, ma questo non mi bastava e non andava bene. Allora andavo settando tutte le 1000 canzoni, stavo ore e ore a settimana a settare tutte le canzoni, inizio del cantato e fine, quindi togliendo assolutamente tutte le pause, togliendo i bianchi, perché poi tra una canzone e l'altra c'era il jingle, ma il jingle doveva iniziare proprio sul finire della canzone e sull'inizio dell'altra. Idem per chi ovviamente faceva la trasmissione, aveva la possibilità di parlare sull'intro della canzone prima del cantato. Era proprio uno dei lavori principali della radio quando è arrivata la regia automatica. Davide, tu se non sbaglio hai avuto modo di vedere anche delle grandi radio da dentro, anche se non facevi lo speaker, però con quello che hai fatto, che ricordiamolo brevemente, tu hai fatto delle canzoni, sì, in tale disco dance, ecco, per chi non lo sapesse ancora, ecco. Di più che le radio ho visto gli studi di registrazione, però sicuramente un paio di radio le ho viste, più avevo dei clienti che venivano in negozio che mi raccontavano di quelle cose incredibili sulle radio, in particolare che si collega un po' al discorso che stavo facendo prima, che non avevo concluso, sul discorso di quel tizio che aveva aperto, che aveva costruito questa radio casalinga, che poi è cresciuta ed è diventata una radio anche importante a Cinisello Balsamo, che era Radio Capo Nord, che magari qualcuno si ricorda anche. Sì, l'ho sentita. Ed era partito da un ragazzotto che ha buttato lì una cosa, e mi è capitato, perché veniva comunque da me in negozio molto spesso a comprare dei pezzi, dei cavi per fare il suo allestimento, mi aveva invitato in questo studio, in questa radio che era già avviata, e mi ha fatto vedere tutta la radio, come era costruita, come era fatta, i macchinari che aveva, gli strumenti che aveva, ed era come se fosse uno studio di registrazione fondamentalmente, più tutta la parte di radio, di emissione radio, quindi comunque era ben attrezzato, erano comunque gli anni 80 e quindi c'era l'attrezzatura degli anni 80 che comunque a vista, sia il banco piuttosto che anche sui microfoni o un po' di attrezzature che vedevano, erano attrezzature molto costose. Perché? Perché lui guadagnava molti soldi con la pubblicità, che erano anche solo spicheraggi a volte, senza fare montaggi, cose strepitose, semplicemente la sua voce, che aveva una voce tipo Simone, quindi importante, diceva la sua cosa e la cosa diventava credibile, capito? Cioè, bastava avere la voce giusta e l'intonazione giusta, e ti diceva che il negozio di scarpe lì sotto aveva delle scarpe della meravigliose, e tu, cacchio, è vero, è bello, andiamo a comprare le scarpe. Cioè, detta con quella voce deve essere vero per forza, là, tutti giù a comprare le scarpe. Esatto, ma davvero, ti giuro che in quell'epoca, che era anche le prime volte che sentivi le pubblicità, parlo degli anni ancora 70 quasi, insomma primi anni 80, le pubblicità erano una cosa, non dico nuova perché la conosciamo già, però nuova nel senso che via nella radio, chiamiamola libera, dell'epoca era una novità, e in più era fatta in un modo diverso da quella che ci proponeva la RAI, che ce la proponeva a mo' di carosello quasi. E la Radio RAI è sempre stata una radio che secondo me non ha mai avuto un'evoluzione particolare, è sempre stata in una zona strana dell'universo. Si è evoluta dopo le radio private, ha iniziato a copiare le radio private riuscendoci sempre non troppo bene, però. Beh, no, con Rai Radio 2 è riuscita bene alla fine, perché Radio 2 a un certo punto ha iniziato proprio a copiare in maniera pedissequa. Ma quanto ci è costata però? Beh, cioè, però posso dire una cosa, che oggi ha scortato i disc jockey di Radio DJ, Radio 105, li ha resi propri, perché quando c'era il duo Baldini e Fiorello su Radio DJ, poi li ha presi e li ha portati a Radio 2. È chiaro che poi anche loro hanno avuto il loro momento, perché qualche persona intelligente ci è andata dentro anche ogni tanto, ci vanno. Ma molto dopo, ragazzi, cioè alla fine è chiaro, io ho la visione milanocentrica come forse voi, però la svolta l'ha fatta tu più degli altri comunque. La svolta l'ha fatta sicuramente Cecchetto, e tra l'altro all'inizio Radio DJ non aveva DJ, era solo musica e jingle. Dov'è che l'ha fatta? È quella che ha avuto più successo, però Radio Milano International era già così prima di Radio DJ, e anche Radio 105 era già così prima di Radio DJ, poi è arrivata Radio DJ dopo. Ti parlo di Milano. Certo, e dopo è quella che ha avuto più successo, però prima Radio Milano International, Radio 105 e poi Radio DJ in termini temporali. Non so se è solo una percezione mia, forse l'età è tutto, o anche perché poi alla fine Radio DJ ha avuto successo anche più avanti grazie alla televisione, anche, però fatto DJ Television, certo, però sembrò un'ondata completamente nuova quella lanciata da Cecchetto. Sì, perché DJ faceva produzioni, a differenza degli altri che facevano ascoltare brani musicali più famosi, in realtà DJ produceva la musica. Di cui una l'hanno prodotta e l'hai fatta tu. Una che è passata. Bungalow. Tutte quelle che abbiamo fatto sono passate per DJ, ma solo una è diventata. Adesso se la trovo al volo la mettiamo. Per un mese è stata la sigla di DJ Television. Esatto. Perché? Perché in quel periodo Stefano Secchi che era un DJ abbastanza famoso in quel periodo, lavorava, era DJ. Esatto, e quindi Stefano Secchi, che era il produttore di questo brano, ovviamente lavorando a DJ, l'ha buttato in ogni dove, ecco. Qualche mix di Secchi qua, eh? Sempre nel cuore. Esatto, Maurizio Pavesi e Stefano Secchi erano i due produttori di questo, Beh, brano. Quello che facevamo tantissimo era alcune radio, praticamente in maniera povera, se vogliamo, si limitavano a trasmettere le serate in discoteca e noi tutti a sentirle, a registrarci le cassette. Certo, sì, le vendevano anche i DJ della discoteca le cassette, sì, sì, direttamente. Sì, sì, all'epoca era, c'era a Bergamo il famoso Capriccio, che sì, ma zona Bergamo Brescia sono sempre stati proprio, c'erano quelle gigantesche, le discotecone, esatto, mega galattiche. Genux, trasmettevano in diretta via radio noi tutti a registrare queste cassette. Sì, sì, sì, poi le producevano loro, anzi era normale che andavi da loro, ce l'hai la cassetta, sì. Beh, guarda, una delle radio più importanti qua nella provincia di Brescia, Radio Number One, deriva proprio dalla discoteca Number One, che è stata una delle, esiste ancora oggi. Esatto, ed è un'altra radio che sono andato a visitare, perché c'è stato un periodo in cui ci ha lavorato un mio amico che abitava dove abitavo io, e poi è diventato un personaggio abbastanza famoso nel campo del cabaret, che si chiama Claudio Batta, che avete forse sentito. Eccolo qua. Zelig. No, Bangalow. E ha lavorato in una radio e una sera l'ho chiamato di notte, tipo alle 3, che stava facendo la trasmissione, mi ha preso dal vivo, mi ha riconosciuto e ha detto: "Ma cacchio, sei tu?" E poi dopo ci siamo sentiti, abbiamo preso un appuntamento. Scusa, Davide, ti azzitti un attimo, c'è la musica. Ma andava bene come sottofondo. Insomma, è più alto del sottofondo. Pazzesco. Ecco, queste sono quelle canzoni che c'è l'intro lunga e quindi lo speaker ci parla sopra. Esatto. Ok, ragazzi, adesso un disco dopo l'altro, noi non ci fermiamo mai. Esatto. Non mangalo. Ho beccato pure l'intro, eh? Eh sì, ci sei andato molto molto vicino, effetti. Vabbè, ragazzi, no, questo comunque sono bangalo di Davide Gatti. Davide Gatti, grande Davide Gatti, che negli anni ogni volta esce fuori sempre una sorpresa, sempre qualcosa che tu non sapevi, e quando finirà le cose che non sapevi sarà una grossa sarò divisione. Morto, sarò morto. Sarò diventato che sabbia per qualche transistor. Bene. Sappiate che mi avete aperto un mondo con Davide Gatti. Io adesso da domani inizierò a cercare, vedo i suoi video, l'ho conosciuto a Brusaporto, se ricordo bene, adesso partirà una ricerca a tappeto su quello che ha fatto Davide Gatti. Ti mando la discografia, guarda. Ecco. No, falla scoprire a me, dai. Ah, va bene. E tanto ogni disco esce con un nome diverso, va bene, vai a caccia e poi mi dici. Vai su disco di G e li trovi. Comunque, tornando al discorso delle radio, la cosa, poi così facciamo anche raccontare una cosa che magari Antonio ci tiene, no? Perché comunque c'è un racconto che lui vuole fare, abbiamo anche un documento, insomma, che magari facciamo ascoltare. Fallo ascoltare, ma credo che forse in maniera più ampia ne sappia Carlo. Parliamo appunto di Radio Sicilia Libera, se non sbaglio si chiamava così. È una storia comunque molto molto importante. Parliamo di tanti tanti anni fa, la Radio Sicilia Libera partì proprio con un SOS dei poveri cristi, che Simone ha. Vado. Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della nuova resistenza. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate. Si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo, si lascia spegnere un'intera popolazione. La popolazione delle valli del Belice, dello Jato e del Carboi, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, avvisate immediatamente i vostri amici, i vostri vicini. Ascoltate la voce del povero Cristo che non vuole morire. Ascoltate la voce della gente che soffre assurdamente. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, non possiamo lasciar compiere questo delitto. Le baracche non reggono, non si può vivere nelle baracche, non si vive di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi a ricoveri appastellati fuori tempo, confusamente, ma a quest'ora tutta la zona poteva essere già ricostruita, con case vere, strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono gli uomini con la volontà di lavorare, ci sono le menti aperte a trasformare i lager della zona terremotata in una nuova città, viva nella campagna con i servizi necessari per garantire una nuova vita. Gli uomini veri di tutto il mondo protestino con noi. L'Italia, il settimo paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solido e una possibilità di vita ad una parte del proprio popolo. Bene, questo è... Adesso ridò la parola a Carlo e a Antonio, magari. Sì, questa qua è una parte della registrazione. In realtà Danilo Dolci, che è quello che avete ascoltato, aveva progettato di trasmettere dei segnali forti per la rinascita in molti sensi. Parliamo in quel caso del terremoto del 68 che nella Valle del Belice ha creato un disastro incredibile. Molta gente è stata alloggiata, ecco, se così possiamo dire, in baracche di fortuna, senza acqua, con il freddo, e doveva essere una cosa temporanea, doveva essere una cosa proprio momentanea. È strano perché non è mai successo, no? No. Negli altri terremoti questa cosa poi. No. E praticamente così non fu. Allora Danilo progettò appunto di trasmettere questi messaggi da una radio, ma all'inizio voleva farlo da non dalla terra ma dall'acqua, nelle acque extraterritoriali, quindi su una nave. Questo era il piano A, ma a conti fatti, questo per scongiurare il sequestro poi qualora fossero presi, in realtà i costi erano troppo alti, e allora decise di fare la stessa cosa passando al piano B con l'aiuto di Franco Alasi e Pino Lombardo. Sono passati appunto al piano B, che era quello di asserragliarsi in una stanza di Palazzo Scalia a Partinico, nei locali del Centro Studi e Iniziative, dove appunto lavorava, se non sbaglio, Alasi o comunque insieme a Lombardo. Quello che avete sentito all'inizio è il flauto dolce, che appunto dà il messaggio dell'SOS. Sì, quello è l'SOS in Morse, se non sbaglio, no? Giusto? Esatto, fatto con il flauto. Da lì partì questa trasmissione. Lui si trovava fuori con degli altoparlanti, comunque riusciva a far ascoltare a tutti questo grido disperato. Era anche un grido, era il portavoce del grido di aiuto di tutta quella gente. Io le ho viste le baracche, quello che è rimasto ad esempio nelle zone vicino al posto dove ho vissuto fino a qualche anno fa, fino a 3-4 anni fa, ci sono ancora i resti della distruzione. Fino a un po' di anni fa c'erano ancora i resti di alcune baracche, era un posto fantasma, venivano i brividi. E allora lui si è fatto portavoce di tutto quello che era il malcontento, ma a livello politico, burocratico, insomma, c'era andato sul pesante con il suo messaggio. Voleva svegliare la gente, insomma, denunciando. Tra l'altro furono 27 ore di trasmissione, e la gente era lì che ascoltava e la gente forse stava iniziando a svegliarsi. C'è, i giornali a quell'epoca parlarono di un fatto che in realtà non era vero. Loro si erano chiusi dentro questo centro studi portando con sé un sacco di fusti di benzina, adesso non so, ma tanti litri di benzina. Si disse che volevano darsi fuoco. In realtà non è così, perché il Dolci, avantissimo secondo me anche come progetto, quando fai un piano lo devi fare bene, aveva un gruppo di continuità, un gruppo elettrogeno. Un gruppo elettrogeno che veniva poi alimentato con la benzina qualora gli avessero tolto la corrente elettrica, e lui avrebbe continuato a trasmettere, lui avrebbe continuato a mandare il messaggio. 27 ore dopo ci fu un'irruzione di carabinieri, polizia, vigili del fuoco che posero fine, insomma, a questa avventura, chiamiamola così. Io non la definirei un'avventura, ma se parliamo di radio, ecco, guardiamolo sotto un altro punto di vista, e allora sì, si può dire l'avventura radiofonica, anche se ci andrei con i piedi di piombo, perché in effetti ancora oggi magari c'è gente che soffre per quel dannato terremoto del 68. Beh, allora, la radio comunque si chiamava Radio Sicilia Libera, quindi già la denominazione libera, però in quel caso non penso fosse, come ha detto prima Davide, riferita alle frequenze, ma proprio al fatto che fosse libera di trasmettere rispetto al monopolio della, diciamo, della anche RAI. Aggiungiamo anche due cose, questo riguarda anche le radio britanniche, insomma, che provavano ovviamente a entrare nelle frequenze, quindi alle radio pirate. Il fatto che si andava per mare evitava, diciamo, due situazioni: uno, l'intercettabilità, che poi era relativo, comunque vabbè, più che altro il fatto di essere trovati immediatamente, ma soprattutto perché in mare, comunque con gli spazi aperti, la propagazione delle onde era maggiore. Perlomeno questo mi spiegò una volta un tizio, dicendo che ovviamente poi le onde, rimbalzando sia sull'acqua che rimbalzando sull'atmosfera, insomma, alla fine vanno più a distanza. Non ho mai capito se questa cosa fosse vera o no, ma ne parleremo in un altro contesto. Una cosa che è certa, ed è quello che poi abbiamo capito anche dall'introduzione dell'Enda Cartago, no? il programma di Roberto Tomaiuolo, no? Dove c'è tutta la parte di Radio Londra, anzi forse nella sigla finale, se non sbaglio, quindi tutto quel pezzo di Radio Londra con quel messaggio criptico che veniva praticamente lanciato verso l'Italia, e da quando, insomma, si era capito le potenzialità della radio, delle onde radio, della trasmissione, della propagazione, della possibilità di comunicare verso l'esterno, verso altre persone, verso una certa distanza, era implicito e assolutamente naturale comunque il fascino, il desiderio di potersi appropriare di questo mezzo, di poterlo utilizzare a volte a fini giustificati, come quelli appunto magari di messaggi di guerra, o in questo caso un SOS, una richiesta d'aiuto verso l'esterno di una popolazione che magari non era ascoltata, perché allora non c'erano i mezzi per poter essere ascoltati, e se ti mettevano il silenzio restavi, insomma, diciamo così. Quindi la radio resterà sempre un mondo particolare, nonostante che oggi c'è YouTube, c'è Twitch, i ragazzi viaggiano verso nuove forme ovviamente di socialità, di media, di utilizzo delle tecnologie, ma secondo me quando hanno l'opportunità di incontrare la radio, secondo me la radio ancora funziona da questo punto di vista, perché è veramente quel suono che ti accompagna in qualche maniera, no? E poi ti racconta storie a volte, o a volte ti fa ridere, a volte ti fa emozionare con magari quel pezzo musicale che è proprio quello che stavi pensando in quel momento del quale avevi bisogno, magari, no? Quindi ecco, vorrei un'opinione finale da tutti voi, cioè su quello che rappresenta la radio secondo voi, che cosa ha rappresentato per voi e secondo voi se rappresenterà ancora qualcosa nel prossimo futuro, a partire da Antonio ovviamente, poi Carlo, Roberto e Davide. Scusami, io purtroppo ho sentito a tratti quando ho detto adesso voglio sentire e okay. Poi no. Ok, no, dicevo che il fatto di cosa, concludendo diciamo questo tipo di discorso, insomma, della bellezza, no, della poesia, anche della radio, cosa la radio ha rappresentato per te, cosa rappresenta e se secondo te rappresenterà qualcosa anche nel futuro, insomma, per magari per si avrà un futuro la radio, ecco. Credo di essere breve. Io dico che per me la radio è stata la mia vita, ha significato tanto, è stata la mia crescita, il mio inserimento in società. Penso che la radio sia un mezzo magico, è esistita, esiste oggi e esisterà per sempre, in ogni forma e ogni dove. Senza la radio non esiste il mondo, secondo me. Bene, sì, bello, sono, mi trovi a, vabbè, a me, come sfondi una porta aperta, Carlo. Beh, dire che non esisterà più la radio è impossibile, pensare che non esisterà più la radio, non esisterà, esisterà sempre la radio, da quando è stata inventata, quando è nata, da quando l'ha inventata Marcucci, ne avevamo parlato forse in una trasmissione sempre di Runtime, uno speciale radio Marconi. Che abbiamo fatto, Marconi, scusami, sono fuso, è notte, tarda, per me è tardissimo adesso, devo andare a dormire. Vabbè, Simone, vabbè. Non ne avevamo fatto uno speciale? Sì, ne avevamo parlato, adesso se, siccome che è tardi anche per me, se mi dici quando e in che episodio preciso non te lo so dire, però ne avevamo parlato. Ne avevamo parlato, sì. E avevamo trasmesso anche la voce proprio originale di Marconi, esatto. della prima trasmissione radio in assoluto della storia, esatto, sì. E comunque da quando è stato inventato questo mezzo, io per me personalmente la radio penso che era penso che era la giornata mondiale della radio dello scorso anno, speciale giornata mondiale della radio, e comunque per me la radio è sempre stata e l'ho sempre considerata una compagna di vita, nel senso che io ho passato la mia gioventù con la radio accesa, sempre, qualunque cosa facessi, da studiare a serviva un modo per anche per concentrarmi, no? Avere del rumore intorno mi faceva concentrare più che avere silenzio, il silenzio invece mi distraeva quasi da quello che stavo facendo, e quindi io l'ho sempre ascoltata la radio, sempre, perennemente, ho passato anni con la radio accesa 24 ore su 24 e anche adesso che vado in auto spesso, adesso ecco sono passato ai podcast perché o a Runtime Radio anche, che sono sì la podcast in generale, Runtime Radio, poi ovviamente anche ogni tanto anche la sera quando mi capita, solo che andando ascoltandola in macchina è difficile per me interagire nella diretta, no, mentre certo, con certo. Gli altri se no vado a schiantarmi il fatto di avere quello che volevo dire è che cambia magari la tecnologia di cambierà la tecnologia di trasmissione, sta già cambiando, è già cambiata, noi trasmettiamo sul web, esistono i podcast che sono un'ottima, cioè la versione on demand della radio che è un'ottima alternativa alla radio, ma io le considero sempre radio, sì, sì anche io sempre radio, sempre radio, e così si sono evoluti nella tecnologia ma non nella sostanza, cioè la sostanza è questa e qualunque tecnologia ci sarà nel futuro rimarrà sempre, è un po' come quando si dice scompariranno i libri, scomparirà la radio, sì, non okay. Scomparirà niente, cioè questi mezzi una volta inventati hanno la loro utilità, il loro modo di esprimersi che è diverso dal guardare un film, guardare un video, perché tu quando ascolti la radio puoi fare qualcos'altro, mentre se guardi un video sei completamente concentrato in quello che è la trasmissione del video, del film, della cosa, è quindi vero. È proprio un modo di fruizione diverso e quindi non può scomparire, ecco. Vincenzo infatti ci dice che la radio è la più longeva ed ha resistito a tutti i cambiamenti, riuscendo sempre a rinnovarsi ed adattarsi ai tempi, e questa è saggezza di Vincenzo, grande Vincenzo. E Roberto e poi Davide. Sì, allora io la mia esperienza è abbastanza simile a quella di Carlo, la radio mi ha accompagnato sempre. sia per sentire la musica, cioè per rilassarmi, o per sentire un rumore di fondo e coprire gli altri rumori di fondo molesti quando dovevo studiare o fare qualcos'altro, per sentire le partite alla radiolina. Quindi è stata davvero importante, una presenza continua, sicuramente. E sono anche d'accordo sul fatto che secondo me adesso noi dobbiamo chiamare radio quelle che sono delle trasmissioni audio, diciamo così. Sì, è vero. Quindi alla fine è una cosa che siamo in grado di ascoltare, però siamo in grado anche di continuare a fare magari quello che stiamo facendo, se guidare o fare altre cose. Questo è il vantaggio enorme che hanno sempre avuto questa cosa rispetto ad esempio alla televisione. Anche se devo dire che adesso sembrerà assurdo, per esempio l'ultimo viaggio lunghissimo che mi sono fatto per sentire il reportage sulla guerra, io ho sentito l'audio della televisione però e secondo me questa potrebbe essere una cosa che alcune televisioni potrebbero offrire. Quello che voglio dire è, ha ragione Carlo, cambia il formato, cambia la fruizione. È probabile che noi abbiamo vissuto i podcast, la nascita dei podcast, ma è probabile che sempre di più ci saranno nuove cose, cambierà ancora, ma io credo che il vantaggio grande è anche l'emozione di sentire l'audio, quindi senza video o senza altre forme di interazione, rimarrà. Può darsi, quello che dicevamo prima, che spero che rimanga anche un piccolo spazio per la diretta, che come dicevamo prima comunque a livello psicologico, almeno per me, dà un'emozione tutta particolare, anche se ovviamente in teoria non c'è motivo per cui dovrebbe farlo, però lo fa, oltre al fatto che chiaramente in diretta è possibile interagire. Sì. Però una cosa non essenziale. Io sono convinto che non morirà questo mezzo, cambierà, non saranno più onde radio, saranno beat, sarà quel che sarà, ma non morirà mai, quindi sono d'accordo con me. Beh, la cosa affascinante è che mentre che per quanto riguarda il discorso più multimediale, quindi più legato all'immagine, sono cambiati anche i nomi, i termini, la radio diventa digitale, quindi fra poco la radio probabilmente con il radio, cioè con la trasmissione radio, probabilmente avrà sempre meno a che fare, eppure il nome persiste in qualche maniera come identificativo di un qualcosa che gli è proprio. Davide, quindi il tuo pensiero finale, così. Pensiero finale, allora sicuramente è comune un po' tutto quello che ho già sentito, con la differenza che io vivevo una situazione un po' diversa, per cui la radio l'ho ascoltata sicuramente in auto, era la cosa che ascoltavo di più, anche se avevo a disposizione qualsiasi tipo di brano musicale, perché avevo un fratello che lavorava da un grossista di vendita dischi, e quindi io in casa avevo tutti i dischi che volevo, con la musica, potevo avere tutta la musica che volevo senza limiti, e quindi in realtà io avevo la musica, me la personalizzavo, quindi la radio l'ascoltavo laddove mi interessava ascoltare non tanto la musica ma le persone, certo, i personaggi, la trasmissione particolare. E però tu, diciamo che anch'io sono con dell'idea che appunto il mezzo cambierà, il mezzo tecnologico, ma sicuramente il format che noi chiamiamo trasmissione radio sarà sempre quella, come quella che stiamo facendo adesso in questo momento, che con la radio non ha niente a che fare, con la radiofrequenza intendo, certo. Però voglio aggiungere un'ultima cosa che sembra un po' brutta se vogliamo sentirla dire, ma è qualcosa che in qualche modo ci dà una piccola speranza. Stanno succedendo cose brutte che noi tutti conosciamo e sappiamo e non vorremmo neanche parlarne, però vi posso dire che se dovesse succedere che per qualche motivo perdiamo la connettività internet, oggi non abbiamo quasi più niente, non avremo musica, non avremo radio, non avremo, sì, comunicazione. Ci stavo pensando a questa cosa proprio questi giorni qua, in effetti. Questa, sì, diciamo che per come è fatto internet è difficile spegnerlo. Questo è difficile spegnerlo, però. Ma basta non che non c'è la corrente, non c'è più internet. Se non è il corrente, o comunque non è a disposizione. Niente. No, lo so che non è più niente, però in realtà, paradossalmente, far andare una radiolina del tubo che possa ricevere delle frequenze, anche onde medie, ed è per questo che dobbiamo attrezzarci, esatto, per questo dobbiamo attrezzarci con il trasmettitore illegale, che insomma comunque è molto più facile che tenere, esatto, in piedi una infrastruttura cellulare, per cui potrebbe succedere che l'infrastruttura cellulare potrebbe avere dei grossi problemi e noi non possiamo, non siamo tagliati fuori da tutto, e tu sei sotto un bunker del tubo, con la radiolina riusciresti ancora ad avere dei segni di vita dall'esterno per capire qualcosa. Quindi allora, voglio dire, non è da sottovalutare comunque. Ma in un finale, potrebbe... in un finale di trasmissione così romantico, dove noi stavamo mettendo tutti i nostri sentimenti su quello che è la radio, Davide giustamente vuole salutare voi ascoltatori con un po' di morte e devastazione, che giustamente insomma ne avevamo veramente molto bisogno. Noi dobbiamo spaziare a 360 gradi le cose belle e anche qualcosa di brutto. Allora, prego, vai. Se mi hai permesso, vorrei buttare un'altra spruzzatina, come si diceva, negli anni 80-90, di romanticismo, con una frase bella dal film Radio Freccia. Posso? Bene. Allora, guarda, ti rimetto, aspetta un secondo, perché così almeno te la metto proprio, ce l'abbiamo avuta sotto fino adesso, però la rimettiamo, perché questo è proprio il mind theme di Radio Freccia, che insomma ci ha accompagnato per un pezzo di trasmissione. Vai. Era giusto per chiudere il mio intervento. Io non lo so com'era avere 18-20 anni negli anni 50 o 60. Non so cosa vuol dire per me e per tanti altri averli adesso. Questo lo so. Questo 1976 è un gran casino. C'è un gran movimento in giro. Non so come dire se è bello o brutto, però è veloce. Ci sono le bombe, c'è il movimento studentesco e ci sono le radio libere. Bello, bello, ci stava a chiudere con un, ecco, no, con un po' di poesia. Bene ragazzi, prima di salutare bene Antonio, insomma, e ricordargli che è stato un privilegio averlo con noi e aver ascoltato, insomma, da parte di una persona che ha attraversato in maniera così robusta, diciamo, questo ambiente che a noi ci piace tantissimo, soprattutto a noi di Runtime Radio. Runtime Radio che vi ricordo che si approccia verso grandi trasformazioni. Questi sono stati 2 anni di grande cambiamento per noi, e come se non bastasse cambieremo ancora, quindi evolveremo, continueremo ad evolvere, abbiamo delle idee, chissà che cosa combineremo, non lo so. Ma detto questo, prima di salutarvi vi ricordo che questa mattina è uscita l'ultima puntata di Data Nightmare, ascoltatela, è abbastanza importante come puntata, come tutte le puntate di Walter Vannini, che in 15 minuti insomma ti dice la sua, poi indipendentemente da tutto lo fa con dei contesti, anche storicizzando, diciamo, il suo pensiero. Detto questo, invece vi ricordo che domani mattina dalle 7 alle 8 c'è Leo Varghion che torna con il Mattino Loro in podcast live, sempre qui su Runtime Radio. Questa settimana le live delle 7 me le sono fatte tutte io, quindi scusate se non accenderò proprio neanche la radio domani mattina, non vi guardo proprio assolutamente. E domani sera vi ricordo alle ore 23 Runtime by Night torna, e poi ovviamente sabato mattina dalle 8:30 alle 9:30 io e Michela con Disordinati Informati, sempre live qui su runtimeradio.it, sempre più live, sempre più radio. Detto questo, io ringrazio intanto Roberto. Grazie a te Simone, grazie a tutti per averci ascoltato. Dai Roberto, dai, così. Davide. Buonasera a tutti, volevo solo ricordarvi di ascoltare l'episodio numero 2 del podcast di Survival Hacking, che è in tema di quello che siamo andati stasera. Non ne ho parlato, ma ve lo potete ascoltare quando volete. E vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. E un po' di bombe termonucleari a tutti quanti, giustamente. No? Ma no. Così, no, che insomma. Tu tanto procurati la radiolina. Io già mi sto attrezzando, Davide, però poi ho bisogno della tua consulenza. Carlo Sant'Agostino. Buonasera a tutti, e che già dorme lui. Sì, io sto dormendo. Ricordiamo sempre che tra poco forse finalmente escono dei nuovi episodi. No, sì, sì, tranquilli, tutto a posto. Sul canale di Archeologia Informatica. Nel frattempo stiamo uscendo con delle puntate nuove del podcast di Archeologia Informatica, una recentemente, adesso ne stiamo preparando un altro paio, una con Davide e una con Roberto, che dovrebbero arrivare, speriamo, a breve. Saluta e ringrazia il tuo ospite a questo punto. Esatto, volevo salutare e ringraziare Antonio, ma volevo ricordare che Antonio, oltre a fare quello che ha fatto negli ultimi anni, si occupa divertendoci anche di retro gaming, con delle fotografie stupende che trovate soprattutto nel suo profilo Instagram che ha, e un gruppo in particolare che, se non ricordo male, si chiama Retro City, giusto Antonio? Sì, sì, esatto, è un gruppo che è nato da poco, Retro City, dove praticamente concentro un po' tutto quello che di bello o di brutto ricordiamo degli anni passati, facendo interagire ovviamente tutti i membri che pian piano si vanno ad iscriversi con il gruppo. Perfetto, ottimo, io... quindi quasi un gemellaggio un po' con quando eravamo futuri. Ma sì, ma poi vedrai che io tra qualche giorno gli scrivo e gli dico: ma ti va di fare lo speaker per l'Antenna Radio? perché no? Io, visto che ho la parola, vorrei ringraziare un po' tutti quelli che sono stati con noi questa sera ascoltando le nostre storie, le nostre esperienze di vita e quelle storiche, ma soprattutto onorato di essere qui con delle belle persone e delle persone importanti come voi. Grazie. Grazie a te, veramente ci ha fatto veramente piacere. Ci ascoltiamo per quanto riguarda Quando Eravamo Futuro, giovedì prossimo ore 21:30, dove parleremo sempre di radio, ma da un punto di vista più radio amatoriale. Ciao a tutti e buonanotte. Buonanotte. Stai ciao. Ascoltando buonanotte. Runtime Radio, la radio geek. La storia di Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Ogni giorno un episodio in onda su Runtime Radio alle 12. Ciao, sono una pasta di avena tutta fibre. Il mio sogno è incontrare un filo d'olio naturale come me, purché extravergine. Con i mezzi rigatoni di avena Felicia, il benessere non è mai stato così invitante. Felicia, fatti di un'altra pasta.